24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 24 ore in Europa, il programma che Radio 24 realizza in collaborazione con Euronet e che vi offre la sintesi delle notizie di taglio di carattere europeo che abbiamo trattato nel corso della giornata. E oggi non possiamo che iniziare da un inno, sentiamo. Eccolo qua, abbiamo seguito per parecchi mesi in passato gli Yes Weekend di Obama. Questo invece è changement, cambiamento, e se maintenant, è adesso. Devo dire che non si sono sprecati gli autori, cambiamento adesso. Questo è l'inno di François Hollande, nuovo presidente francese, ritorno di un socialista all'Eliseo. E le notizie ci portano ai commenti, uno dei quali arriva da José Manuel Barroso. Dice: personalmente a nome della Commissione Europea mi congratulo vivamente con François Hollande per questa vittoria. Le sfide sono molte, dice il Presidente della Commissione, per la Francia come per l'Unione Europea, e dice ancora: sono convinto che potremo affrontarle. Ma allora, su questa vittoria cominciamo a sentire Sergio Nava, ne parla con Frank Paul Weber, corrispondente della Tribune in Italia. Volta nella Quinta Repubblica francese, che esiste dagli anni 60, che un socialista viene eletto Presidente della Repubblica, il primo da François Mitterrand, che era un po' l'eccezione in 81, e dunque è la conferma che la Francia è capace di fare questa alternanza tra centrodestra e centrosinistra. Frank Paul, giovani e giustizia sono state le priorità che François Hollande ha annunciato ieri nel discorso, diciamo, di investitura ufficiale. Cosa può significare nel concreto? Diciamo, giustizia, Hollande mette soprattutto un impatto sugli effetti della crisi, che lui ha fatto la sua campagna anche per dire che devono essere ripartiti in modo migliore tra diciamo i cosiddetti ricchi, i cosiddetti poveri, e che non sono magari i ricchi non vengono aiutati dal fisco nel mezzo della crisi. Questo nel senso, diciamo, della giustizia, perché c'è stata una soprappresenza Sarkozy molto dibattita e controversa su questo. Sui giovani, lui ha questo contratto di generazione che anche su, ad esempio, su il lavoro, eccetera, dove si cerca di dare prospettiva ai giovani, anche se non si sa esattamente come farà. Il neoeletto presidente francese e il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, si incontreranno molto presto, probabilmente a Bruxelles. Lo annuncia intanto la portavoce della Commissione UE, Pia Harenkild. A proposito di nomi femminili, il voto francese ha avuto ben tre protagoniste femminili, tre donne molto diverse tra loro. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Sarko entrò con Cecilia all'Eliseo, ne esce con Carla. Hollande all'Eliseo entra già con due donne al fianco. Ségolène, ex candidata ed ex compagna, ma ancora compagna di partito e madre dei suoi figli, e Valérie, commentatrice politica del prestigioso Paris Match e fidanzata, anche se c'è chi giura non per molto. Poi ci sono i figli. Sarko entrò all'Eliseo con la sua prole, quella dell'allora moglie, e il figlio di entrambi, tutti a sfilare sul tappeto rosso. Oggi ne esce con una bimba in più, la piccola Giulia. Hollande, di figli al seguito, ne porta sette. Quattro suoi, il primo impegnatissimo per la sua elezione, che resteranno con la madre, e poi tre della nuova compagna, che giura: lavorerò per mantenerli, non li lascerò sulle spalle dei francesi. Per essere una Francia che non ama l'esibizione della vita personale per un presidente, non c'è che dire. Aspetteremo per vedere chi sfilerà sul tappeto rosso dell'Eliseo, che scelta farà Hollande per le foto di rito. Nel frattempo, le male lingue hanno già messo sotto esame le due signore che dovranno scambiarsi le chiavi di casa. Carla resterà con Sarkozy e Valérie dovrà arrendersi ad un matrimonio diplomatico. Un segnale di rottura, certo, l'ingresso di una convivente all'Eliseo, ma quanto potrebbe pesare su future visite diplomatiche? D'altra parte, prima di lei toccò ad Angela Merkel, irriducibile convivente nel lontano 98, sposò l'eterno fidanzato per conquistare la guida della Germania. Il regno di Francia, perso o conquistato, quanto varrà ora per Carla e Valérie? Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo ai commenti. Pierluigi Bersani, segretario PD, dice: quella dell'elezione di François Hollande è una vittoria che può essere un passo determinante per invertire il ciclo disastroso dei governi delle destre. Una Francia più vicina all'interesse italiano, secondo l'ex ministro degli esteri PDL Franco Frattini. E se Antonio Di Pietro, Italia dei Valori, parla di punto di svolta, Casini sottolinea che i due risultati, quello francese e quello greco, sono la faccia della stessa medaglia. Ora sentiamo invece il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, al microfono di Katia Caramelli. Credo che questo voto globalmente rappresenti una bocciatura secca, forte, formidabile delle politiche europee segnate dall'egemonia dei tecnocrati e dalle ricette ultra fallimentari del liberismo. C'è una sinistra che critica l'Europa, l'Europa dell'austerità, l'Europa della povertà come risposta alla crisi, e quella sinistra che critica quell'Europa, che alza la bandiera di una nuova Europa, alza, diciamo così, l'asticella della difesa dei diritti sociali e del welfare, quella sinistra vince. La sinistra che ha invece interpretato il compito di fare le politiche sociali della destra, come è accaduto al PASOK in Grecia, viene letteralmente travolta. Ecco, attenzione. La sinistra ha il compito di salvare e rilanciare il progetto di Unione Europea, ma lo può fare non difendendo una moneta, difendendo un'idea di civiltà. Attenzione arriva anche dalla Germania, che all'indomani del voto dice non è possibile rinegoziare il patto di bilancio europeo, che è già stato sottoscritto da 25 dei 27 paesi membri dell'Unione. Lo ha affermato Steffen Seibert, portavoce della cancelleria tedesca, all'indomani delle elezioni di François Hollande. Dunque l'allerta lanciato dalla Germania sul rispetto dei patti assunti da poche settimane. E ora vediamo le borse europee, che dopo lo scivolone iniziale della mattina hanno in realtà salutato positivamente la vittoria del presidente socialista, eccezione per Francoforte, rimasta al palo sul timore che la politica del rigore portata avanti dalla cancelliera Merkel venga appunto messa in discussione. Milano e Madrid le performance migliori, recuperando la debolezza delle ultime settimane. E ora vediamo la pagina internazionale. Il governo della Siria sta agevolando il lavoro degli osservatori delle Nazioni Unite dispiegati per monitorare una tregua costantemente violata. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Damasco, Walid el-Mollem, come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Sana. E allora sentiamo il servizio di Alberto Negri. A che cosa servono le elezioni in Siria? Soprattutto al regime e a Bashar Assad, che ha un obiettivo: guadagnare tempo, soffocare l'opposizione ed evitare un intervento internazionale. Così questa mattina qui a Damasco si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari. Alle urne teoricamente sono chiamati 14 milioni di siriani. In realtà in molte zone del paese dove divampano proteste e guerriglia sarà difficile, se non impossibile, votare. Ma la macchina della propaganda si è mobilitata per dare l'immagine di una Siria diversa, quindi forte dispiegamento degli apparati di sicurezza e un piano politico. Ai seggi si votano liste di indipendenti che danno grande spazio alle minoranze cristiane. L'obiettivo è quello di frammentare la società siriana per attenuare il peso della maggioranza sunnita ostile al potere alla guida degli Assad. Mentre continuano la violenza e la missione dell'ONU degli osservatori, il regime tenta di vincere il primo round della guerra civile siriana. Guadagnare tempo per Bashar è già un successo. Bene, con questa notizia notizia, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di 24 ore in Europa. Vi ricordo che potete ritrovare tutte le informazioni sul sito di Radio 24 e su www.euronet.eu. Dunque, da Filippo Aureggi in regia, da Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'appuntamento con 24 ore in Europa per domani alla stessa ora. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.